Cari amiche, cari amici, bentrovati, bentrovate, benvenuti nel 2011, migliori auguri a tutti voi. Siamo ritornati, siamo tutti quanti qui questa sera, in questa piovosa serata bruxellese, però ce l'abbiamo fatta, siamo qui. E bingo! E grazie a George che è stato il mio angelo salvatore questa sera. Angelo trasportatore, sono stato il Mercurio, il dio del trasporto, dei viaggi. Il mio Mercurio questa sera che è riuscito, insomma, a far sì che la mia presenza fosse assicurata, perché ahimè, insomma, viviamo a Bruxelles di tanto in tanto le sorprese. Siano esse buone o cattive, capitano anche in questa meravigliosa e straordinaria città. Io saluto Daniele in regia, la nostra Fiordaliso, il nostro George. Saluto, buonasera. Saluto veramente tutta la redazione di Radio Alma, che alacremente è ritornata al lavoro, quindi saluto anche il nostro direttore Roberto Giava. E siamo tutti felici di essere nuovamente qui. Abbiamo un anno strepitoso da poter cominciare insieme. Tantissimi sono gli ospiti che avremo strada facendo. Allora, tu hai detto buon anno in italiano, lo facciamo dire anche in ungherese. Sì, giusto. Bodo Gujevet. Ah, Bodo Gujevet, lo sanno anche i bambini, che si dice così. Vedi, certo. Quindi, ovviamente i bambini ungheresi e basta. Ma comunque è così. Ma io direi che possiamo dire anche in francese, no? Meilleur vœu. Meilleur vœu, bon année, meilleur vœu. Perché questo? Perché questa sera vogliamo cominciare l'anno in maniera un po' diversa. Voi sapete che di tanto in tanto dedichiamo uno spazio anche ai nostri amici bruxellois, che comunque ci ospitano, quindi sentiamo, insomma, doveroso l'impegno anche verso la lingua francese, che comunque ci circonda e di cui siamo inevitabilmente parte. E io sono oltremodo felice perché ho modo di rincontrare nuovamente Monique Tomasetti, la quale, lo so che è timida, però ha anche origini italiane. Quindi per un po', per un quarto d'ora, circa 20 minuti, passiamo dall'italiano al francese. Io spero di essere sufficientemente in forma, quindi mi scuso degli eventuali errori che posso fare in lingua francese. Monique Tomasetti. Declare origini italienne. On se trompe. D'origine très lointaine italienne. Oui. Lointaine de quelle époque, si je... Mais cela remonterait au Moyen-Âge. Ah, alors, oui. trois frères Tomasetti, mais dont l'orthographe différait de celle présente, puisqu'à l'époque, on n'en avait pas. Trois frères ont quitté l'Italie, le nord de l'Italie ou la Suisse italienne, on ne sait pas très bien. Mm-hmm. Ils étaient compagnons et faisaient des vitraux dans les cathédrales. Je ne sais pas si c'était en tant qu'artiste, artisan ou ouvrier, ou les trois en même temps. Et donc ils ont quitté leur lieu d'origine et se sont séparés. Un frère est allé dans ce qui allait être la Belgique, un autre en France et un autre en Hollande. Ça a l'air d'une histoire, grande famille, quand même. Ça a l'air d'une légende, mais c'est réel. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on a retrouvé des Tomasetti aussi bien en Belgique francophone que flamande, en France, là où il y a des cathédrales, et en Hollande. Du reste, quand on va sur Google, Tomasetti avec E, c'est mon nom, eh bien il n'y en a qu'une, c'est moi, mais par contre Tomasetti sans E, il y en a tout plein, et surtout, semble-t-il... néerlandophone. Alors je ne les connais pas, donc je dois avoir des cousins que j'ignore, et je me dis toujours qu'il faudra un jour que je prenne le temps d'essayer d'entrer en contact, mais je suis tellement prise par mon écriture. Non, mais ça, on l'imagine. En fait, ce soir, on est ici. On a 20 minutes. Et ça, c'est un dommage. C'est comme d'habitude à la radio, c'est comme ça. On n'aura jamais assez de temps. Et ce soir, on va essayer de parler quand même de trois publications. Moment d'une pichée. Mes bouteilles à la mer contenaient des tempêtes. Et Georges, tu as le dernier dans tes mains. Un arpège de paix. Alors, tout d'abord, je voudrais bien, Monique, si tu es d'accord, de faire quand même une petite présentation, parce que je ne suis pas certain que tout le monde, tous nos amis qui nous écoutent, ont un souvenir de ton écriture. Donc, brièvement, si tu peux nous raconter quel était ton parcours, parce qu'il y a un parcours très varié. Et donc, je te laisse en fait la parole pour te décrire, parce que je sais que c'est difficile, mais quand même, je t'en prie. D'accord. Ben voilà, je suis née au mois de mars 1946, un mardi gras, un 5 mars très exactement. Moi, les 10, donc ensuite, on est en bonne compagnie. Oui, ah bon. Alors donc, j'ai spontanément, je pense, toujours fonctionné de façon imagée. Et cela vient peut-être de ma famille maternelle. Ma mère étant née dans les cantons de l'Est en Belgique, dans la région de Malmedy, où il parlait à l'époque uniquement allemand. C'est-à-dire que ma mère parlait allemand et je n'ai pas pu apprendre sa langue pour différentes raisons. Donc lorsque j'allais dans la ferme de ma mère est née dans une ferme de 15 enfants, eh bien... je pense, je m'en souviens même, que je lisais davantage sur les visages, dans la mesure où je ne comprenais pas les paroles. Alors, je ne sais pas si c'est l'origine de ma vocation de peintre, sans doute. Une autre origine vient sans doute aussi de ce que mon institutrice en première et deuxième primaire, à savoir Liliane Wouters, donc c'était en 1952-53, m'avait envoyé dessiner au tableau pendant les cours de couture parce que j'étais vraiment une très très mauvaise élève pour tirer l'aiguille ou pour tricoter. Alors donc, elle m'avait mise aussi 21 sur 20 ou 11 sur 10 en dessin. Peut-être que c'était pour cette dithyrambe pour m'encourager parce que j'étais une élève assez... remuante, comme elle disait. Enfin, toujours est-il que en est résulté une confiance en moi au niveau de l'expression plastique. Alors donc, à 12 ans, nous habitions alors à Arlon. Je suis née à Bruxelles, mais nous avons déménagé pendant 8 ans à Arlon. Ayant eu connaissance d'un prix de théâtre organisé par Marabout Mademoiselle, et annoncé dans les Sylvie, hôtesse de l'air, livre que ma sœur, qui a 4 ans plus que moi, lisait, eh bien, j'ai eu envie d'écrire une pièce de théâtre à 12 ans. Et bon, j'ai fait cela sans en parler à personne, ni à mes parents, ni à personne d'autre. Et d'emblée, le titre m'était venu, Le marchand d'ombre chinoise. Et c'était une pièce, tout simplement, qui racontait les figures d'ombre projetées par les mains, voilà, comme tous les enfants peuvent. Ouais. Et puis donc, là, c'était une espèce de voyageur de commerce qui allait de porte en porte et qui vendait ses ombres chinoises. Donc, c'était tout à fait quelque chose d'insaisissable. Je ne me souviens plus du tout de ce que j'ai écrit parce que je n'ai pas gardé le double de cela et je le regrette beaucoup. Alors, bon, j'avais pratiquement oublié cette pièce lorsque est arrivée par la poste une reconnaissance de ma pièce, non pas un prix, mais simplement une mention spéciale pour l'originalité de mon sujet, ce qui m'avait aussi encouragée. Donc ça a été, à part les rédactions, bien sûr, à l'école, la première vraiment écriture de ma vie à l'âge de 12 ans. Alors la deuxième, c'était un poème écrit lorsque j'avais 16 ans, suite à un voyage scolaire à Bruges. Le lac d'amour m'avait interpellée, c'est-à-dire qu'à Bruges, il y a une fontaine, où il y avait, je ne sais pas si elle existe encore, qui s'appelle la fontaine d'amour. Les filles, d'après la légende, qui y lançaient une pièce de monnaie, trouvaient à coup sûr dans l'année un mari. Alors, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé chez moi. Parce que j'ai lancé, comme toutes les autres filles de ma classe, une pièce de monnaie dans la fontaine d'amour. J'ai entre-temps envoyé mon poème au journal Le Soir, qui avait tous les jeudis une page réservée aux jeunes et aux enfants, publiant leurs poèmes. Et j'ai eu la surprise de voir mon poème accepté. Je leur avais donc envoyé en automne 1962, et en janvier, je crois, 63, je l'ai vu publié dans le Soir avec mon nom, adresse, c'est mon âge. Ah oui, c'était une reconnaissance. Et un peu après, me vient une lettre datée du 21 mars, commençant comme ceci. Tu ne sais qui je suis, je ne sais qui tu es, cette lettre va te sembler bien étrange. Et cette lettre, ben, c'était de Gérard Adam, qui lui aussi écrivait des poèmes, et donc voilà, qui avait été touché par le mien. Alors bon, ma vie a toujours de ces choses assez d'ordre légendaire, mais qui sont tout à fait réels. Et donc nous nous sommes rencontrés par la plume avant de nous voir, et puis voilà, maintenant il a cette maison d'édition Meillot, à laquelle je participe, et donc là on était prédestinés à une construction littéraire, mais tout en étant, j'insiste très fort, parce que mariée depuis 43 ans, eh bien, dans un couple, la femme doit bien se situer par rapport à son mari. Nous sommes tout à fait séparés en écriture, nous ne nous conseillons pas, et là, je tiens à le souligner. Alors, donc, je continue, voilà, donc, ce poème. Alors, à partir de là, j'ai découpé dans le journal Le Lac d'Amour, donc mon poème publié. Je me suis acheté un cahier et j'ai collé à la deuxième page, la première étant blanche avec mon nom, à la deuxième page j'ai collé la coupure de presse entre guillemets, donc ce poème, et à la suite de quoi j'ai écrit d'autres poèmes jusqu'à l'âge de 22 ans. Poème dont j'ai publié une partie en 1994. Et puis alors voilà, la vie, moi je rêvais, en fait j'avais davantage je dessinais, mais j'avais davantage de joie à écrire des poèmes ou d'autres textes en prose qu'à dessiner. Mais seulement, donc je pensais faire des études littéraires pour être professeur ou régente littéraire, mais la vie en a décidé autrement. Je me suis adaptée et je me suis tournée vers l'Académie de peinture. J'avais déjà suivi des cours à Saint-Josse, des cours de dessin nature morte le soir et le dimanche matin de peinture nature morte aussi. Et puis, à la suite de quoi, la vie m'a menée à faire l'Académie des Beaux-Arts de la rue du Midi, mais là, on est les libres, c'est-à-dire que je bénéficiais de modèles, et je travaillais comme d'ailleurs beaucoup à l'époque. Il paraît que c'était après mai 68, alors il y avait parmi, paraît-il, dans certaines classes, les professeurs, une confiance accordée dans la science infuse des élèves, entre guillemets. Et donc, voilà. Alors, j'ai pu me laisser aller librement à la mienne. Et donc, voilà, j'ai pu dessiner et peindre d'après modèle. Mais, donc je me raconte, puisque c'est ce que vous demandiez. Oui, je suis peut-être un peu longue, mais j'essaie quand même d'abréger. Mais, auparavant, et cela dès mes 12 ans, j'avais envie de dessiner des portraits, commençant par mes autoportraits. Donc je prenais un miroir de la main gauche, de la main droite un crayon, j'essayais de dessiner mon visage, mais c'était difficile parce que je manquais de recul. À 12 ans, on ne sait pas encore très bien la technique. Et je me souviens notamment d'un dimanche après-midi où mon père écoutait à la radio Luc Varenne commentant les matchs de football et moi dessinant. Enfin bon, bref, petite image. C'est en fait l'exercice d'un moment d'une psyché, plus ou moins. Oui, voilà. C'est l'exercice. Et alors, j'en ai presque terminé. Oui, alors, oui. Je me suis mise adolescente à dessiner au crayon ma grand-mère, mes parents, etc. J'avais énormément de plaisir dans le portrait. Et je pense que c'est dans la mesure où j'étais assez timide et sauvage, c'était une manière d'entrer en contact avec l'autre, peut-être aussi d'avoir, entre guillemets, une certaine autorité sur cet autre que je craignais et qui m'intimidait, une certaine autorité en le dessinant. ou la dessinant. Bon. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Alors voilà, donc, il y a deux livres. Moment d'une psyché, où je parle de cet aspect de ma peinture tout à fait réel, c'est-à-dire d'après nature. Tandis que mon deuxième livre de poèmes montre davantage mon côté symboliste. Mais côté symboliste sur le plan de la pratique picturale, cette pratique rendue possible par une pratique justement d'après nature, donc laquelle me permettait d'imaginer des visages, etc. Donc voilà, si je dois me présenter, mais je dirais que il y a, et c'est d'ailleurs dans mon horoscope. Et c'est très marrant parce que Gérard a le même dans son horoscope, c'est-à-dire qu'on a deux, oui. c'est ce qui fait qu'on va se ressembler quelque Vous fois. Êtes de quel signe donc? Poisson et lui est Capricorne. Mais ah, c'est, disons que c'est. Mais dans les Chinois, c'est quoi? C'est mais important. Ah, moi, je suis chien. Ah, et chien. Et lui? Coq. Coq. Ah, d'accord. Et j'ai l'ascendant Verseau. Il a l'ascendant. Il a l'ascendant Lion, mais je crois qu'il est plutôt Vierge de Lion. Il est à la limite. Mais enfin, bon, écoutez, bon, je fais un petit peu une astrologie sauvage là parce que je n'y connais pas grand-chose. Mais donc voilà, il y a donc ces deux aspects d'une vie tout à fait imaginaire et symboliste, et une autre qui est davantage ancrée dans la vie réelle et humaine, je dirais. Et puis bon, j'ai donc toujours dessiné et écrit. Mais il se fait qu'en 1994, j'ai de moins en moins peint et de plus en plus écrit. C'était un passage naturel, j'imagine. C'est un passage qui s'est fait tout seul. Et en fait, c'est comme une énergie qui passait dans une autre forme. L'univers, à savoir le mien, était toujours le même, mais la forme différait. Mais j'arrivais par l'écriture, et j'arrive par l'écriture, à dire davantage au niveau de la pensée. Maintenant, ceci est discutable, parce que quand je peignais, je pensais. Et donc, c'est vrai qu'il faut se méfier des cloisonnements et des étiquettes. Donc, je ne vais pas trop essayer de définir ou de démontrer, parce que là, ça va, l'essentiel va nous échapper. Oui, mais en tout cas, ce qui ressort quand même des livres dont on est en train de parler, c'est quand même la racine liée à la peinture. Ça, c'est clair, parce que la façon d'écrire, c'est quand même... ça donne l'idée, en fait, que d'abord, il y a une image qui est très clair, qui est très vive, qui est très vivant, et par la suite, donc, il y a la description en mots. Mais moi, je pense que tous tes poèmes seront, comme on dit, simplement représentés dans un tableau. Ça, c'est mon impression, oui, je pense. En fait, d'autres que vous l'ont déjà dit, et je pense que c'est parce qu'on me connaît comme peintre. Si on ne me connaissait pas comme peintre, il y aurait le côté vision, peut-être, qui apparaîtrait. Mais la vision n'est pas seulement dans le regard, il y a la vision au niveau des autres sens. Alors donc, ce n'est pas à partir d'une image que j'écris. C'est vrai que dans ces derniers livres, et cela depuis 3 ou 4 ans, j'ai eu envie d'écrire à partir de mes tableaux anciens, ce que je n'avais pas fait auparavant. C'est-à-dire que lorsque la peinture et l'écriture se rejoignent, c'est évidemment inévitable, puisque c'est mon univers. Mais en fait, je pense qu'il y a aussi l'aspect musical, l'aspect philosophe dans ce que j'ai écrit. Oui. Et c'est vraiment parce que j'en suis persuadée, on me connaît en tant que peintre, qu'on me dit que je pars... D'autant plus maintenant que je dis que je l'ai fait réellement, que je pars à partir d'une image. Mais lorsque je peignais, certains m'ont reproché d'être trop littéraire. Je ne suis d'ailleurs pas la seule symboliste à qui on a dit ce genre de choses. D'être trop littéraire. En effet, en peignant ces tableaux, surtout symbolistes, je me racontais toute une histoire. Toute une histoire que j'ai eu envie par la suite de raconter et de varier. Hein, c'est un petit peu l'objet des livres symbolistes. Mais là, là, on va souligner ce qu'on va dire avec... un poème. Avec, oui, avec quelques lignes. Et la musique. Arbre, je vous parle comme à des animaux. Valeur sûre d'une bonne nature. Mieux que des canons, des coupes de tonnerre célèbrent mon retour. Ça, j'aimais beaucoup la musique qui est dedans, enfin, le couvrement. Et après, la philosophie. Assumer ses rêves, c'est emporter jusqu'au bout le pas d'impossible. Cette abstention est ma vie, c'est impossible et mon destin. Tant à l'impossible, était-nous la poétesse. Alors, vraiment, il y a aussi les destins, c'est la direction où tu vas vraiment, mais non, t'es allé toute ta vie. Mais c'est le lot de tout artiste, oui. Et artiste, bien bon, sûr. Art, il y a 7, 8, 9 arts, bon, un écrivain est artiste, donc je le dis sûr. Dans le sens général, c'est le lot de tous les artistes qui, excusez-moi le verbe, mais qui en crèvent, et je pense à... Je pense à un exemple terrible, Van Gogh, qui finalement a vraiment donné sa vie pour la peinture. Réellement. Aujourd'hui, je dois dire personnellement, je suis une privilégiée parce que je ne dois pas gagner ma vie. J'ai un mari qui à ce point de vue-là, me soutient. Donc, je peux par conséquent consacrer tout mon temps à mon expression personnelle. Je ne fais que ça, et bien sûr, je m'occupe un peu du ménage, mais de mes petites filles, ma fille, ma mère qui a 96 ans, qui est dans une maison de repos, que je vais visiter trop peu souvent, enfin 2 fois par semaine. Ma sœur y va tous les jours. Mais donc, je suis prise par la vie quotidienne, mais autrement, sur le plan du faire, de la création, je consacre mes journées à l'écriture, bon, plus à la peinture, puisque j'ai cessé de peindre. Donc, si Monique Tomasetti devait choisir la plume ou les pinceaux, quel serait son choix? Ah, mais ça, c'est la question de Salvatore Mucciardo, un autre. Donc, on est arrivé. Donc, un autre italien, mais voilà, qui m'avait posé des questions très, très fines. Et. C'est vrai que je lui avais répondu, entre autres, en citant un poème de 94, bon, la plume m'a ravi, et je ne pouvais pas résister à ce ravissement dans les deux sens du terme, à tel point que je me suis sentie coupable à un moment donné, pendant 2 ou 3 ans, le peintre que j'étais se sentait coupable envers l'écrivain que je suis et que j'étais. Mais je dis le peintre que j'étais, bon, je suis toujours restée peintre. Mais tout cela, c'est une question de forme qui diffère. La matière demeure et la forme se perd, disait Ronsard. Eh bien, oui. Bon, la matière est toujours là. Et donc l'art aussi. L'art, je l'espère. J'espère que ce que je fais est artistique. En tout cas, je travaille pour donner une forme artistique à cette matière. Maintenant, je ne sais pas si j'y arrive, évidemment. On doute toujours de ce qu'on fait. Mais il y a toujours l'élan, quand même. S'il vous plaît. Il y a toujours l'élan. L'élan. Oui. Ah oui, l'élan, oui. C'est le principal. C'est important. C'est le principal. Oui. C'est vrai. C'est essentiel. C'est l'essentiel. Je ne sais pas si, Georges, il y a encore des morceaux qu'il souhaite lire. Et bon, les petites pièces, il y a une page qui m'a pris parce que ça me touche. Hein. C'est « Humour au esprit d'une colombe sur un arbre perché ». Ouais. Donc, variante. Reprochera-t-on au sol de se pencher sur l'eau et au peuplier d'étendre vers le ciel? Si l'eau se prend dans peuplier et si le ciel se prend dans le sol, quelle erreur du destin! Hélène a connu des erreurs de ce type, si j'ose dire. Elle ne s'en plaignait guère, dans la mesure où ses mauvais aiguillages aiguillonnaient sa plume, et où elle attendait le miraculeux moment de retourner l'arbre, de lui faire en quelque sorte le poirier. La racine de l'idée aurait peut-être, qui sait, déterré quelques pépites d'or. Le plan de désir transmué en or inspiré. Et les désirs comportent aussi de divers niveaux. Le plus subtil n'est pas le moins frustré. Mais l'or pèse aussi. Du plomb dans l'ail? En définitive, de l'or. Un anneau d'or à la pâte. Métamorphosé et bagué. La voici l'épouse du divin colombophile. Quel esprit! Souvent, amoureuse varie. Concluant ces inévitables saisons, l'arbre sage. Donc il n'y a pas que le poème, il y a aussi le théâtre. Oui. Mais là, c'est une partie. C'est pas une seulement partie. Du théâtre, c'est oui, vraiment. Oui, mais quand même une partie. Ah, oui, oui, parmi les formes d'art dont j'ai parlé. J'ai commencé donc, par ça. C'est vrai que. Écoutez, poème, conte, prose. Théâtre, peu importe le flacon pour vous croire. Oui, bien sûr. Peu importe le contenant des mots. Voilà, c'est tellement vrai que dans ce recueil de fables, j'ai mis une fable sous forme théâtrale, une autre sous forme de poème. Et voilà, mais vivent les différentes formes d'art. Alors moi, je dirais pour l'instant de nous arrêter ici. S'il nous reste de temps, nous allons encore peut-être discuter de l'ouvrage de Monique Tomasetti. On venait en fait de dire ce soir, donc, premier rendez-vous pour 2011. Et pour la première fois à Bruxelles-Land, j'espère que tout le monde va en être content. On va aussi parler de l'horoscope 2011. Donc, voilà. Il y a notre ami ici, Massimiliano. Donc, on va tourner maintenant, on va parler en italien. Qu'il peut-être va nous révéler des choses intéressantes sur les signes pour 2011. Je ne sais pas, au moins j'espère. Je sais que ce n'est pas l'année de mon signe, donc voilà. Bon, je l'ai déjà menacé. S'il dit quelque chose qui ne me plaît pas, bon, il va dehors. Mais donc, je crois que. Il prend ses risques en tout cas. Il prend ses risques, bien sûr. Sinon, on va utiliser l'horoscope chinois. Exactement. On va changer, oui. Bon, on commence avec les 6 signes et après. 6 signes, une pause et les autres on verra si ça marche par rapport à la qualité du contenu exactement, et à la volonté on pourrait le faire en deux morceaux. Je ne sais pas si on continue en italien ou en français. En italien pour Massimiliano, oui, en italien, ça ira va bene. Va bene. Donc, salve a tutti. Vive il multilinguismo. Ecco il multilinguismo. Cominciamo con il. Quindi la minaccia però era in francese, ma l'hai capito benissimo. Ti spestiamo mi le gambe. Raccomando. Una a una, ne hai due. Fanne buon uso. Dunque, salve a tutti. Dunque, io inizierei con una domanda. Questo 2011 sarà l'anno giusto per agire? Bene, lo scopriamo. Perché? Vediamo in generale. Dunque, nel 2011 ci sarà un passaggio del pianeta Giove e chiunque infatti avrà la fortuna di averlo nel proprio segno, in aspetto positivo, si potrà sentire fortunato oltre che beato. Abbiamo esempi di quelli dove transita Giove. Giove transita e arriverà in Ariete, il primo segno dello zodiaco. Quindi tutti i segni di fuoco sono, nel caso di specie, i più favoriti da queste angolazioni astrali. Quindi l'Ariete. Vediamo i segni di fuoco che non mi ricordo mai. Il leone e il sagittario. Comunque una cosa è chiara, stasera Giove non andava in metropolitana. Sicuro. E questo sicuro. Va bene. Vabbè, quindi Giove transita e porta fuori. E già siamo fuori e te Giove, mi dispiace. Ok, d'accordo. Nemmeno tu. Nemmeno lui, nessuno di noi, va bene, Brucellando del segno della Vergine, quindi vediamo. Tra l'altro, sì. Sì, è del segno della Vergine, Brucellando. Va bene, ma iniziamo dall'Ariete, no? È il primo segno. Beh, sì, vuoi confondere le acque e cominciare con i più fortunati. No, cominciamo. Metodicamente, come al dopo il telegiornale, come qua. Ariete. Dai, ragazzi, abbiamo pochissimo forza tempo, abbiamo cominciato un po' più tardi. Vai, forza l'Ariete. Allora, l'Ariete. Innanzitutto voglio dire. L'oroscopo e le previsioni del 2011 vogliono essere un augurio per tutti i segni. Quindi diciamo, il 2011 sarà l'anno dell'Ariete e dei segni di fuoco. L'anno dell'Ariete? Sì, esatto. Certo, segni di fuoco. Vabbè. Il pianeta che transiterà principalmente nel segno sarà Giove, come abbiamo già detto, che formerà diversi aspetti positivi. Fra voi e la persona amata l'intesa diventerà più forte, crescerà l'armonia che renderà ancora più felice il rapporto, soprattutto con l'influenza anche di altri pianeti come Saturno, Urano e Nettuno, che dal mese di marzo saranno dalla vostra parte e manderanno ogni giorno messaggi sempre più rassicuranti. Evviva il segno dell'Ariete, cari amiche, cari amici all'ascolto del segno dell'Ariete, mi raccomando, stanno insomma, sfondate, quindi, orecchie da mercanti, perché insomma qui ci sono buone notizie. E finiamo sempre col dire, i pianeti a voi più cari, sempre agli amici Ariete, vi consigliamo di essere sempre vivaci e socievoli, e di non perdere l'occasione per deliziare con simpatia le persone che vi stanno vicino. Non arrabbiatevi subito, come di solito fate, e soprattutto non siate vendicativi, vi prego. Beh, l'Ariete è noto, vuole sempre avere ragione, quindi sì, insomma sì, ci quindi, dobbiamo rassegnare. Quindi amici della Ariete, telefonata brussellando, fateci gli auguri, siate gentili, non donc, vi arrabbiate. Pour nos amis 2011, c'est l'année du bélier. Donc, a Paramount, il n'y a personne ici. C'est pas le tigre. L'année de Bamena, peut-être qu'on va ouvrir par la suite. Donc, c'est l'année du bélier. Vai. Allora, continuiamo con il toro, cari amici del toro. Il 2011 sarà un anno particolarmente fecondo. Sarete pervasi da tanta ispirazione che riuscirete a cambiare in meglio la vostra vita, grazie anche alla congiunzione tra Venere, Urano e in Pesci. Bene, Imola, siamo tutti felici per te. Cioè, dai, è un segno, il segno della terra, quello però. Sì, esattamente. È un segno di terra, quindi sì. Vabbè, non è fortunato in questo senso, ma è fecondo. Però è in mezzo. Da... Ah, fecondo, qui secondo me. Giorgio, sei sempre un poeta, Giorgio. Qui gattacico, ma vabbè, tanto lo sapremo prima o poi. Ma attenzione, soprattutto nel secondo trimestre dell'anno, dovete sapervi adattare alle mutevoli situazioni che si presenteranno, e lo farete con successo, grazie anche all'aiuto di Venere. Esattamente. Cercate di condurre una vita tranquilla e date il meglio di voi stessi con la disponibilità e l'altruismo che vi caratterizza, facendo molta attenzione ai dettagli e ai comportamenti delle persone che vi circondano, perché basta poco per sbagliare. Sì, in effetti, quindi cari amici del toro, state attenti. Se il vostro compagno, la vostra compagna una sera viene a casa arrabbiato nero perché per l'ennesima volta avete rovesciato il latte sul tappeto, avete lasciato il dentifricio aperto, si è seccato. Preferirei di questi guai sempre, Giorgio. Non avete dato da mangiare al gatto che quindi ha graffiato. Giorgio, passiamo al segno prossimo, va. Beh, allora non vi preoccupate, è colpa vostra, lo sappiamo. Date un bacio a chi sta vicino e che vi tutto passa. Veniamo ai gemelli. Ci sarà un inizio di anno un po' instabile, soprattutto nei rapporti familiari. Se tenterete di impegnarvi seriamente nei nuovi legami, riuscirete ad avere buoni risultati, perché non dovete basare il rapporto solo sulla dislocazione fisica, ma anche la buona intesa nel dialogo vi risulterà preziosa. Questo è un messaggio per tutti gli expat che insomma hanno rapporti di coppia a distanza, quindi insomma non vi scoraggiate, l'amore resisterà. Il secondo trimestre sarà all'insegna delle amicizie, soprattutto quelle passate, che ritorneranno restituendovi diverse nuove occasioni, anche in ambito lavorativo. Siete governati da Mercurio, del quale estrapolerete ogni singola energia, e nel lavoro cercate di non discutere con i colleghi, a voi meno simpatici, dovete moderare le critiche e gli atteggiamenti. Già, quelli dei gemelli sono che è tipico dei gemelli. Che gli avelli sono double fast, un po' piangono, un po' ridono, un po' attaccano, un po' vi accarezzano. E poi tu giù fai la tensione. Sì. Il bello dei gemelli è anche il loro brutto. Il bello e il cattivo tempo messo insieme. Così. Il bello e il cattivo tempo messo insieme. Nello stesso tempo piove con il sole con i gemelli. Che meno male che non sono andati a marzo, altrimenti sai che confusione. Quarto segno. Beh, gemelli sono segni doppi come i pesci, sagittario e vergine. Passiamo al cancro però. Sagittario pure un segno doppio. Esatto, sì, sarebbero infatti i sagittari, però si dice come sagittari. Come i pesci. Allora passiamo al cancro. Il vostro oroscopo del 2011, cari amici del cancro, è senz'altro positivo per quanto attiene il lavoro, che si prefigurerà più energico di quanto poteste aspettarvi, anche se i primi 5 mesi saranno per di più in salita per il transito di alcuni pianeti. Un lungo transito infatti di Venere nella vostra casa dell'amore da settembre a dicembre 2011 renderà la vostra vita sentimentale molto movimentata. Che vuol ma dire? Ma non risentirete affatto, anzi troverete la vostra occasione migliore per approfondire tanti aspetti di voi stessi. Di voi stessi, ah, meno male, va, quindi le coppie già in coppia resistono. Resistono, sì, una opportunità per amare. No, a me quello che mi preoccupa sono i 5 mesi di lavoro, perché c'hai preso, fino a maggio è finita. Questo 2011 è la vostra opportunità, cari amici del Cancro, per riacquistare sicurezza in voi. Potete dimostrare tutto il vostro affetto e potete essere estremamente attenti alle esigenze altrui, perché se pensate troppo alle cose rischiate di diventare egoisti. Senti, ma lato soldi, qua. Che cosa fortuna, che ci dici? No, essere troppo curioso. Non pervenuto. Per il Cancro sappiamo solo che da settembre le coppie avranno una persona in più. Si crea un triangolo per... Se ho capito bene, si crea un triangolo. Vabbè, cancro. Per il Cancro, se vogliamo aggiungere, da maggio a giugno sono i mesi migliori e saranno i mesi ricchi, anche dal punto di vista economico. Sono solo due. Sono solo due, bastano. C'è chi ne ha neanche uno. Per chiudere vacanze, è normale. Va bene, cari amici, passiamo all'altro segno del fuoco, il leone. Siamo a 6, questo è il sesto segno. Questo è il quinto segno. Ahia, stavo cercando di confondere. Non è preciso. Giorgio è un oroscopo a 13. Anno di transizione non spiccatamente positivo, il vostro, cari amici del leone, perché dovrete affrontare con la determinazione e la risolutezza che vi caratterizza questo anno 2011. Sarà un anno in cui dovrete talvolta sostenere situazioni complicate, in cui la linea guida più conveniente da seguire sarà la ponderatezza e la razionalità. Per qualsiasi momento di difficoltà che vi si presenterà davanti, non sottovalutate la vostra forza, perché riuscirete sicuramente a trovare le energie necessarie per contrapporvi alle diversità. Misurate le vostre possibilità e adeguatevi di conseguenza. Nella seconda parte dell'anno la situazione in questo senso migliorerà decisamente. Quindi cari amiche, cari amici del segno del leone, non vi scoraggiate, insomma, dopo la salita inevitabilmente c'è la discesa, questo è la parte della natura, no? È la palestra. È così. Dai ragazzi, sono curioso di sentire la Vergine, che è l'oroscopo di Brussellando. Sentiamo cosa e allora arriviamo alla Vergine, il sesto segno, segno di terra. Il vostro sarà un anno di novità e di ritrovato equilibrio interiore. Yes. Sarà cioè un anno di ripresa, anche se nei primi mesi sarete chiamati ancora una volta a risolvere situazioni delicate rimaste in sospeso e che richiederanno tutta la vostra diplomazia. Allora, io lo so. Le cuffie. La musica italiana abbiamo. Cercate di sistemare le eventuali questioni ancora da chiarire con tranquillità e con dialogo, cercando di evitare di farvi vincere dall'impulsività e dall'irritazione. Io li ammazzo tutti. Siamo in quattro, poi il temperamento differisce per ognuno. Io non so se vogliamo dare magari la parola a Imola o continuare con gli ultimi sei segni. Io direi, visto che insomma lo vedo disponibile quest'uomo, potremmo chiudere con il Dai, siamo in the mood. Lo vorrei tenere qui e poi farlo per venire la prossima settimana. Io resto qui. E farlo venire la prossima settimana per dare gli altri prossimi sei segni. Voi cosa ne dite? Dipende da lui. No, lui è disponibile. Guarda, ha alzato le mani come un angioletto. No, non sarebbe giusto, però, per gli altri sei segni. È giusto. Beh, io sono gli altri sei segni. Io voglio sapere. Se siete curiosi, state sintonizzati su Radio Alma 101.9 Brussellando. Questo è un colpo di stato di gioco. George. Dalle 8 alle 9. Allora, idea di cedere quindi un attimo la parola alla nostra Fiordaliso, così apriamo un attimo il librangolo, vediamo cosa Fiordaliso ha da raccontarci e poi chiudiamo con Monique. Vediamo con Monique se ci sono ancora un paio di domande, intanto insomma ne riparliamo insomma tra 7-8 minuti. Va bene. O forse 5, chi lo sa. Beh, siamo nelle tue mani. Librangolo. Allora, Allora, io sto leggendo un libro, ma non, non la prima volta, e quindi ve ne posso parlare liberamente anche se solo soltanto alla metà. E si tratta di Se il sole muore di Oriana Fallaci, che è un suo libro che praticamente quasi nessuno conosce. Non lo so perché, perché secondo me è un libro che praticamente che mi ha fatto amare come scrive Fallaci, mi ha fatto attenta su che cosa scrive anche nel futuro. E quindi lei aveva scritto questo libro, che è la storia di un viaggio che lei aveva fatto negli Stati Uniti per indagare un po' su questa voglia dell'uomo di andare sulla Luna, ma proprio a fondo, intervistando gli astronauti, intervistando quelli che hanno reso possibile anche questo viaggio sulla Luna, intervistando quelli della NASA con tutte le loro procedure assolutamente burocratiche e anche buffe in un certo senso, per proteggersi da un lato, dall'altro lato per aprirsi proprio completamente in modo... Cioè, come dice anche la Fallaci, ad un certo punto gli americani ti fanno le domande più approfondite per poi dirti di tutto, e poi dicono: ma mamma mia, i russi sapranno che cosa stiamo facendo. Certo che lo sapranno, i russi lo sapevano sempre. E poi loro comunque dicevano quasi tutto, quindi non era che c'erano dei grandi segreti. Comunque, quello che sta dietro questa indagine non è altro che la domanda se qual è il punto oltre cui l'uomo non può spingersi, com'è questo nostro, diciamo, progresso, dove va, quello che lasciamo indietro lo dobbiamo veramente lasciare indietro. E quindi come comincia il libro è proprio un punto difficile, perché arrivando in America lei trova per esempio una città dove l'erba è fatta per esempio di plastica, o anche praticamente le piante sono fatte di plastica dentro gli hotel, dove cioè l'aria è carica proprio di inquinamento come lo conosciamo anche oggi. E il prezzo sembra troppo grande da pagare. E una delle prime conversazioni che fa è con Ray Bradbury, il grande scrittore di fantascienza, che praticamente quello che le dice è che praticamente qua si tratta della sopravvivenza dell'uomo, perché qua non si tratta semplicemente del fatto di indagare, di andare fuori, di esplorare dei nuovi orizzonti, si tratta del fatto che prima o poi il sole morirà. E quando il sole muore, comunque l'umanità dovrà fare qualcosa, cioè o perirà laddove è o dovrà fare qualcos'altro, perché l'unico modo in cui tutto quello che abbiamo creato mentre eravamo qua sulla Terra, che include l'arte, le nostre città, Leonardo da Vinci, Beethoven, tutto quello che siamo riusciti a creare, se noi non ci trasformiamo, non andiamo altrove, andranno perduti assolutamente. Senza rimedio. E poi se ci sarà bisogno per andare altrove di diventare dei licheni, un'altra roba, anche allora, lui diceva, anche allora dobbiamo farlo, perché anche così dentro i nostri geni, dentro la nostra eredità porteremo qualcosa di questa umanità che ha vissuto qua per un bel paio di anni, diciamo. E quindi ci sono queste due cose contrastanti: da un lato il prezzo da pagare, la bellezza delle cose, delle tradizioni, dall'altro lato c'è questo futuro che sembra anche necessario, ma che è anche bello. E durante questo suo viaggio lei scoprirà le bellezze e le difficoltà, sperimentando di tutto, dalla centrifuga fino a stare dentro una capsula nelle astronavi, a conoscere gli uomini dietro gli astronauti e gli scienziati. E quindi io vi raccomando vivamente questo libro, scopritelo, è una chicca, diciamo. Vogliamo ricordare nuovamente l'autore, il titolo, e se ti ricordi la casa editrice? La casa editrice penso che sia il Burr. E Oriana Fallaci, Biblioteca Universale Rizzoli. Sì, bravo, grazie per la traduzione simultanea. Ed è Oriana Fallaci con Se il sole muore. Beh, è un libro famosissimo, comunque è un libro che... Tra i più famosi, credo, della Fallaci, no? Bene, sì, ce ne sono molti di famosi, però... Non si legge così tanto. No, non si legge molto, anche se è molto famoso il titolo, comunque è conosciuto. Infatti, perché lei è... Tra i suoi titoli, sì, comunque più, insomma, sì, sì, on the spotlight. Sì, on the spotlight. Beh, è grandissimo Oriana Fallaci con questo suo stile secco. È ribelle. Che secco, ma secca. Che secco. Sicuramente secco, ribelle. Secca nel sicuramente senso ribelle. Ribelle. Emozionale. Emozionale, ultra emozionale. Emozionale o passionale? Passionale, ma non puoi dire passionale. Ribelle, secco. Dai, ribelle sono meglio. No, secco nel senso di spigoloso, ecco, questo volevo dire, scusatemi, sono ritratto quello che ho detto. Volevo dire spigoloso, perché lei aveva anche un carattere spigoloso. E oltre era molto passionale, sì, ma anche spigolosa nelle sue cose. E faceva parte del suo personaggio, era un po' carattere, la parte della sua terra anche. Che si era un po', insomma, anche ritagliata. Cara Fiordaliso, penso che non potevi iniziare... Nel miglior più meglio, se mi consentite, io un errore all'anno è concesso, e non ha fatto nessun errore, quindi adesso me lo invento io. Più meglio, inauguro la serie degli errori in italiano. Lo non dico potevi io, cominciare meglio, infatti, lui che è la nostra bruxellandopedia vivente. Io lascerei la parola quindi a Massimiliano ancora qualche minuto, perché insomma alla radio il tempo è tiranno. Benissimo. E concludiamo con gli ultimi sei segni. E riprendendo concludiamo con gli ultimi sei segni e riprendiamo con la bilancia. In realtà volevo ricordare che questo rappresenta un augurio a tutti i segni, perché per comprendere realmente i transiti di passaggio bisognerebbe fare un oroscopo personalizzato, ma se vogliamo andare avanti e vedere esattamente cosa succede anche alla bilancia, vi dico che questo 2011 per tutti i nati sotto il segno della bilancia sarà un anno all'insegna della fortuna, e ci saranno molti stimoli e molte sorprese. Lo stai inventando, io no. Lo vedo, stai inventando, stavo cercando le parole diverse. George, Oriana Fallaci era anche spigolosa, ma tu sei abituaiable, scusami. No, sarà un anno in cui consoliderete progressi ottenuti fino ad ora con molto impegno, in cui riemergerà dopo tanto tempo quella voglia di fare che era rimasta nascosta negli ultimi tempi. La parola che meglio descrive il vostro 2011 è senz'altro positiva, perché imparerete ad affrontare e risolvere ogni situazione difficile con serenità ed equilibrio. Riuscirete a migliorare la qualità della vostra vita e di conseguenza a vedere più spesso il bicchiere mezzo pieno e il lato positivo delle cose. Bene. Va bene? Speriamo, insomma, che sia di buon auspicio veramente per i nostri amici della bilancia. Vediamo lo Scorpione, è un segno d'acqua. Cari amici dello Scorpione, il vostro 2011 sarà un anno di transizione, di passaggio. Dovrete affrontare qualche situazione di difficoltà all'inizio dell'anno. Considerate il 2011 come un anno di preparazione verso un futuro più roseo, in cui dovete consolidare i risultati raggiunti nello scorso anno, in cui dovete irrobustire ciò che di positivo siete riusciti a costruire fino ad ora. Non vi scoraggiate, amici dello Scorpione, insomma, la salita è sempre lì, ma voi riuscirete a percorrerla con grinta. Non scoraggiatevi di fronte agli eventi negativi. Gli scorpioni sanno benissimo come riemergere dagli eventi negativi. Ma hanno tutte quelle pinze, se non lo sanno loro. Va bene, rimboccate le maniche, quindi. Cari amici del Sagittario. Il Sagittario sarà uno dei segni più favoriti di questo 2011. Buona sapersi. Grazie ad uno splendido cielo che brilla di tutta positività. Solo per brevi periodi della prima metà dell'anno, nei quali il rapido transito di alcuni pianeti in opposizione con altri, come ad esempio Saturno e Plutone, vi porteranno qualche piccola fase di negatività, ma niente di cui preoccuparsi, visto che nella seconda metà dell'anno avrete un fantastico Giove come amico, che porterà positività sotto ogni aspetto. Quindi se dovrete fare passi importanti, questo sarà l'anno giusto per affrontarli, in tutta serenità, e la conferma di ciò che viene anche da Saturno in settima casa, detta anche la casa degli alti, che indica proprio rinnovamento e favorisce i legami. Poi un giorno spiegheremo le case, quando avremo tempo. La prossima puntata. La prossima puntata. Bene, Capricorno, segno di terra, il grande protagonista in questo 2011, lo sapete, è Giove, il pianeta della crescita e dell'espansione. Questo sarà l'anno perfetto per affrontare i viaggi lunghissimi e magari all'avventura, visto che avrete una notevole propensione alla libertà e all'esplorazione. Quindi se avete in mente da anni il viaggio della vita, cercate di programmare entro quest'anno, il 2011. Beh, ce l'auguriamo, insomma, amici del Capricorno, insomma, organizzatevi. Il viaggio, come sapete, è uno dei nostri temi preferiti, quindi certo. Vi vogliamo chiaramente. Certo. Dai, che siamo alla fine, all'Acquario. Acquario, segno d'aria, un 2011 pieno di novità, sia positive che negative. Ok, mi vado, ciao. La prima parte dell'anno, infatti, i nati sotto questo segno verranno messi davanti a scelte molto importanti, soprattutto in ambito lavorativo e in ambito sentimentale. Qui starà a voi decidere l'esito del vostro destino. In entrambi? Pure in amore? Esatto, esatto. Ponderate bene ogni minima scelta, anche sotto l'aspetto delle finanze. Questa prima parte dell'anno non sarà il massimo, dovrete quasi sicuramente affrontare spese sostanziali. Invece arriverà il cielo sereno per voi nella seconda metà del 2011, precisamente da agosto in poi, periodo in cui arriverà in vostro aiuto appunto Giove. Bene, ora chiudiamo con il più atteso dei segni. Oh, finalmente i pesciolini. Per i nati sotto il segno dei pesci, come cantava la canzone, cantava Antonio Venditti, 1978. Sarà come un film a lieto fine. Infatti l'inizio dell'anno sarà abbastanza difficile, perché poiché avrete alcuni pianeti che vi restano un po' indigesti, sì. Sarete colpiti soprattutto sotto l'aspetto psicofisico e questo porterà problemi in quasi tutti i campi. Ma nella seconda parte dell'anno riuscirete a tirar fuori tutte le vostre caratteristiche migliori, tra cui la vostra generosità e l'inconfondibile sensibilità. E questo creerà intorno a voi un mare d'affetto, il mare preferito da voi pesciolini. E che ci facciamo solo con l'affetto? Lo guadagnerai inizio dell'anno, ma speriamo. Come si dice noi a Roma, domani beato chi c'ha un occhio. Esatto, domani beato chi c'ha un occhio. Allora, noi salutiamo ovviamente Massimo per la sua squisita disponibilità. Insomma, come voi sapete, insomma, l'oroscopo è un po' una sorta di giocoso momento in cui si cerca un attimo di intravedere quello che accadrà nei prossimi mesi. Ci sembrava un'occasione carina e simpatica per ritrovare tutti voi che ci ascoltate. Siamo alla fine perché il tempo è tiranno. Io voglio ringraziare Monique Tomasetti che è stata con noi questa sera. Voglio anche salutare ugualmente, ovviamente, Gerard Adam, che col quale ormai insomma è nata una collaborazione, devo dire, oltremodo consolidata. E quindi io ringrazio veramente Gerard per tutti gli ospiti che ci ha portato e quelli che continuerà ancora a portarci in futuro. E noi ci rivediamo martedì prossimo. Ringrazio Fiordaliso per essere ovviamente il nostro fiore all'occhiello per i suggerimenti letterari, Dani M in regia, senza il quale effettivamente ogni cosa sarebbe impensabile. Quindi lascio la parola al nostro Giorgio, che ci saluta con uno dei versi di Monique. Sonore vision, drapé rythmé, à la musique des visuels et personnelles légendes, à perte de souffle, à perte de vue, à perte d'ouïe, à l'horizon intimiste de mon cœur, où battent et claquent aux fenêtres ouvertes des contes dépliés par un vent réveillé, ravisseur. Bon anno à tutti. Buon anno a tutti. Ciao. Buon anno.